Veniamo a un resoconto di oggi, 7 luglio. Dopo i blocchi e le azioni per fermare il summit del G8, la polizia cerchia da ieri, mercoledì 6 luglio, l'ecovillaggio di Stirling. Nel camping l'atmosfera è tranquilla. Hanno lasciato partire solo quelle persone in possesso di biglietti dei mezzi pubblici. Non si sa ancora con che criterio scelgano chi possa partire e chi no. Alle 8:45 a Londra esplode il primo di una serie di ordigni che hanno causato una tragedia alle persone coinvolte e dai loro cari, rafforzando probabilmente gli stessi governi che venivano colpiti. Quattro esplosioni nell'arco di poco più di 2 ore. Questa è la prima cronologia su una mattinata di terrore a Londra. La prima esplosione è avvenuta alle 8:49 in un tunnel del metrò tra le stazioni di Liverpool Street e Aldgate East. 2 minuti dopo c'è un'altra esplosione. Nel tunnel della stazione di Edgware Road, a 3 minuti dopo, un'altra nel metro di King's Cross. Poi una pausa fino alle 11:04, quando c'è stata un'esplosione nell'autobus che transitava vicino a Russell Square. Il capo di Scotland Yard, Ian Blair, ha detto di pensare che le esplosioni a Londra siano un'azione terroristica. Tracce di esplosivo sono state trovate su uno dei luoghi dove sono avvenute le esplosioni, ha detto il capo della polizia di Londra. Una sorta di sospensione immobilizza gli eventi di Edimburgo. Mentre Londra è nel caos, le notizie che giungono dalla campagna scozzese sono di relativa calma. Solo alle 13:45 si ha notizia della Infernal Noise Brigade che si trova fuori dalla prigione vicino ad Haymarket, in segno di solidarietà con gli arrestati. Attorno alle 14:20 dall'ecovillaggio di Stirling giunge l'informazione di una manifestazione silenziosa che lascerà l'ecovillaggio verso le 15 per dirigersi verso il tribunale. Alle 15:15 parte una manifestazione silenziosa e la polizia impedisce ai manifestanti di lasciare l'ecovillaggio. La manifestazione non viene considerata autorizzata, al momento la situazione è tranquilla, nonostante l'atteggiamento ostile degli sbirri. Persistente la presenza del corpo speciale di poliziotti armati, di macchine fotografiche e telecamere. 15:50, le 11 persone accusate di cospirazione comparse al tribunale di Glasgow oggi sono state rilasciate. 16:05, la polizia ha circondato il campeggio e a nessuno è più permesso entrare o lasciare il campeggio vista la non autorizzazione della manif. Al momento all'interno del campo ci sono varie attività, musicisti di Peace Not War e Creative Forum stanno inscenando una festa. Ad Edimburgo, manifestazione spontanea di fronte all'ufficio dello sceriffo, una persona arrestata con la forza. Lo si accusava di essere in un'area dove non aveva il permesso di stare. La persona arrestata aveva un documento con il timbro per l'area proibita in tasca, fornitogli dal tribunale. La polizia però si è rifiutata di controllargli i documenti. 16:30 la polizia ha posto fine alla manifestazione della Infernal Noise Brigade in solidarietà con gli arresti di fronte al tribunale. 2 sono gli arrestati. Nel frattempo giunge un report del tribunale. 39 persone erano al tribunale di Stirling, mentre altre sono state spostate a Falkirk. In tutto almeno 60. Alcuni di loro, si suppone, dal tribunale di Perth sono state portate a Dundee. Allertati gli interpreti per tedesco, olandese, spagnolo, portoghese, finlandese, norvegese ed ebraico. Non è chiaro quale fosse l'accusa, ma apparentemente dovrebbe trattarsi di infrazione della quiete pubblica. Le condizioni principali per il rilascio sono non andare nei distretti di Edimburgo, Stirling, Glasgow, Perth e King Cross. Firmare tutti i giorni nella locale stazione di polizia e rilasciare un indirizzo in Gran Bretagna, condizione che rende difficile il rilascio degli arrestati stranieri. Ad alcuni è stato invece permesso di raccogliere i propri oggetti personali e tornare a terra. Alcune persone non residenti nel Regno Unito si sono visti rimandare la procedura a domani. Questo potrebbe creare dei problemi per i voli di ritorno già programmati. Non siamo sicuri circa la base legale della richiesta di fornire un indirizzo nel Regno Unito. Potrebbe basarsi sulla procedura criminale dell'articolo 95. I procedimenti avranno luogo in ottobre e c'è una data intermedia verso la fine di settembre. Questa dilazione nel tempo è normale nei casi scozzesi, vista l'apparente mancanza di giudici. 2 dozzine di reporter stanno coprendo l'evento. Domani a Edimburgo ci sarà una manifestazione in solidarietà con gli arrestati. A partire dalle 16:30 fuori dal carcere Southton per mostrare solidarietà a tutti gli imprigionati di questi giorni. La convocazione è per una manifestazione pacifica. L'indirizzo del carcere è 33 Stenhouse Road. Nord Edimburgo alle 17:55, 15 camionette della polizia antisommossa e 3 veicoli di comando con i lampeggianti accesi si stanno dirigendo verso il centro della città. 18:40 Edimburgo. Il team antiesplosivi si è diretto verso Princess Street con lampeggianti accesi, che è bloccata dalla parte est. Un ipotetico ordigno è stato fatto esplodere dagli artificieri. 19:20, Stirling nel campo, è ritornata la calma. Sono diverse le persone che hanno lasciato il campeggio a causa della paura di venire bloccati dentro poiché non possono compiere azioni e per le intimidazioni generali. La polizia non ha nessuna intenzione di intervenire nell'ecovillaggio. Sembra che invece sia interessata a che i manifestanti vi rimangano rinchiusi per evitare così che possano fare altre azioni di disturbo. Domani sono infatti in programma due manifestazioni, una Reclaim the Street a Edimburgo ed una dimostrazione in solidarietà con gli arrestati di fronte al tribunale.